Il caso Ryanair, che mi sembra molto interessante sia per quanto riguarda, diciamo, la protesta e la mobilitazione italiana, sia per il fatto che la mobilitazione investe anche i piloti tedeschi e irlandesi la prossima settimana e sono pronti anche ad aderire a questa protesta a quelli portoghesi e spagnoli. E di fatto, diciamo, alla base delle rivendicazioni ci sono quasi sempre gli stessi temi, cioè diritti e tutele, il riconoscimento degli straordinari per quanto riguarda i piloti italiani e anche i diritti sindacali per quanto riguarda invece quelli irlandesi, dove praticamente Ryanair, piuttosto che contrattare appunto attraverso i sindacati, lo fa attraverso diciamo degli istituti interni all'azienda stessa. Quello che in Italia appunto sembra abbastanza esilarante, come tutta la politica da Calenda Del Rio a Poletti si siano in qualche modo risentiti, no, delle minacce, in qualche modo della rappresaglia fondamentalmente di Ryanair nei confronti dei lavoratori, quando tutto questo non succede tutte le altre volte che altri mezzi del trasporto pubblico dicono uno sciopero. Non credi alla buona fede delle dichiarazioni di Calenda e di altri? Ma sostanzialmente no, nel senso che ovviamente siamo tutti contro la rappresaglia e, diciamo, l'autoritarismo di Ryanair, che appunto fino ad oggi ha fatto il bello e il cattivo tempo come ha voluto. È effettivamente un freno, ci deve essere, anche perché appunto qui non sono garantiti davvero i diritti minimi sia sindacali che quelli costituzionalmente garantiti. Poi vorrei ricordare a Calenda, ma anche a Poletti e Del Rio, che tutto questo non è rispettato anche da altri milioni di contratti italiani, a partire dalle collaborazioni, gli appalti e i subappalti. Di conseguenza, appunto, il tema del non rispetto dei diritti è, come sappiamo, abbastanza vasto e ormai afferisce a molti settori economici. La questione è capire cosa c'è dietro strategicamente, perché appunto se ti ricordi, anche tempo fa si cominciava a balenare che l'emissione di parti di Alitalia sarebbe dovuta essere acquisita da Ryanair e così via. Quindi ovviamente non faccio il complottismo, però ecco perché quando si parla di scioperi del trasporto pubblico locale, dove appunto i lavoratori sono vessati, non hanno riconosciuti gli straordinari, i contratti nel cambio subappalto tagliano gli straordinari, l'organizzazione del lavoro, e l'autoritarismo delle aziende appaltatrici esiste, tutto questo non avviene, anzi il diritto di sciopero viene proprio dall'alto, in qualche modo è limitato, comunque limitato. Sì, infatti spesso si è parlato, per bocca degli stessi ministri che abbiamo citato, di dover limitare il diritto di sciopero, sempre con la scusa di non creare disagi ai cittadini. Sì, no, c'è sempre questa ovviamente interfaccia per cui sono i cittadini, i clienti, gli utenti a non deve essere appunto posti in condizioni di disagio, quando appunto i lavoratori sono comunque dei cittadini e sono anche dei lavoratori che sempre più appunto si sobbarcano delle condizioni sicuramente non brillanti, e usuranti, pensiamo appunto al trasporto pubblico locale. Però da questo punto di vista appunto non c'è mai stata traccia in qualche modo di una difesa al diritto di sciopero, anzi al contrario, se guardiamo l'ultimo contratto collettivo nazionale, proprio quello logistica e trasporto, lo sciopero viene in qualche modo ridotto e quindi a altri, diciamo, settori e momenti di quell'attività vengono iscritti come diritti pubblici essenziali, di conseguenza appunto il diritto di sciopero non può essere proclamato liberamente, eccetera. Questo non è nient'altro che una riduzione dei limiti del perimetro appunto del diritto di sciopero. E invece cosa rispondiamo a Dichino, che figura l'alternanza scuola-lavoro come una punizione nei confronti dei genitori che indirizzano male i propri figli? Ma Dichino, allora, quando fa questa affermazione, che lui dice appunto l'alternanza scuola-lavoro è una cosa buona e i genitori non devono spiegare ai figli che devono fare poco precariato e poi cercare la stabilità e quindi un lavoro buono, secondo Dichino, appunto, ovviamente nella retorica dominante la questione è che è meglio fare un lavoro gratuito, anche nel caso dell'alternanza scuola-lavoro è un lavoro gratuito, tra l'altro obbligatorio, su cui non si sceglie, cioè non si ha nessun diritto, è obbligatorio, e però è sempre meglio fare appunto questi tipi di lavoro e quindi farsi sfruttare che rimanere disoccupati, no? Perché sul curriculum, se sei uno sfruttato, effettivamente le aziende sanno che ti fai sfruttare e ti potranno assumere con maggiore probabilità, mentre se sei un disoccupato che ha rifiutato condizioni spregevoli di lavoro, allora no. Il problema appunto di Dichino è che è una di quelle persone che ancora pensa che la disoccupazione sia volontaria e che lo sfruttamento non esiste. Ovviamente Dichino probabilmente non si è mai ritrovato né a lavorare obbligatoriamente gratis in condizioni appunto come quelle che viviamo oggi, 350 euro al mese con i tirocini eccetera, e non ha a cuore minimamente dal punto di vista politico quali sono i diritti dei lavoratori. Non a caso appunto i suoi interventi politici ce li ricordiamo tutti. Esatto, fu il primo a parlare della cancellazione dell'articolo 18 quando ancora sembrava impossibile, eppure siamo arrivati anche lì. E abbiamo poi abbiamo qualche minuto, insomma, per un ultimo tema che riguarda il lavoro festivo, un tema che è esploso con le liberalizzazioni del governo Monti nel 2011. Abbiamo visto anche sentenze recenti, in particolare a Mondo Convenienza, in cui in tribunale viene riaffermato un diritto che sembrava cancellato, ovvero va bene, si può lavorare nei giorni festivi, ma il lavoro deve essere volontario e non, diciamo così, coatto. Sì, questo è quello che dice la sentenza, che però appunto a cui sfugge quelli che sono i rapporti di forza attuali, ovvero lavoratori messi in condizioni di ricatto e di estrema vulnerabilità non è che sono così liberi di scegliere se lavorare o non nei festivi. Forse si dovrebbe regolamentare e tornare indietro sulla normativa da questo punto di vista. Tra l'altro ci sono appunto articoli che girano secondo cui tutto quello che viene venduto nei festivi, no, è più o meno, raggiunge 9 miliardi di euro in Italia nell'anno. Quello che sappiamo però, che sono appunto, come diciamo sempre, quegli acquisti rimandati durante la settimana perché la gente non ha più tempi di vita e di conseguenza è anche obbligata a fare la spesa, le compere, shopping durante il weekend. Quindi appunto, ancora una volta, come per il diritto di sciopero, mettere di fronte a, in qualche modo, la dicotomia tra consumatore e lavoratore, che poi appunto è sempre quello impoverito, quello che non ha tempo, quello che appunto deve aspettare gli sconti negli outlet, che si gioca una partita politica che invece dovrebbe vedere sia i lavoratori sfruttati da un lato, sia appunto chi non ha i tempi durante la settimana dalla stessa parte.